tutte le strade, non ho scelto quella giusta. Siamo i migliori nel campo come la vodka in Russia. Qua non c'è posto per te, il tuo flow nessuno lo aggiusta. Io non vado a c'è posto per te, ma scelgo di aprire la busta. Non è che sei vecchia scuola, tu frate sei un rapper emi. Vedi le scarpe che c'è piedi, leghi la suola, Peppe Fedi. Il tuo storio bene, wow. Voi down, ok, siete in down. Tanta roba, se le so. Dico sempre, ciao. Kate Moss. Faccio di tutto per le donne come Bang Bros. C'ho lei vicino che sta fatta come Kate Moss. Fischio cose nel termo, per questo non sto mai fermo. Vuoi volare in eterno, chiedi all'esperto. Cercavamo i contenuti, poi non ci siamo trattenuti. Abbiamo fatto un salto dalle groupie, tu hai fatto un salto dalle ruby. Sapete tutti i testi a memoria, poi ci date dei venduti. Contro noi non c'è storia, è come se ti invade Putin. Tra tutte le strade non ho scelto quella giusta. Siamo i migliori nel campo come la vodka in Russia. Qua non c'è posto per te, il tuo flow nessuno lo aggiusta. Io non vado a c'è posto per te, ma scelgo di aprire la busta. Non è che sei vecchia scuola, tu frate sei un rapper emi. Vedi le scarpe che c'è piedi, leghi la suola, Peppe Fedi. Il tuo storio bene, wow. Voi down, ok, siete in down. Tanta roba, se le so. Dico sempre, ciao.